Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. La reclamava la statistica, la pretendevano i moviolisti di professione che da troppe settimane erano costretti ad arrampicarsi sugli specchi. Morale, la brutta domenica arbitrale è finalmente arrivata, e con le polemiche è subito tutto un altro campionato, insomma, che è molto più in linea con le tradizioni di casa nostra. Due sono i casi eclatanti, ma ce ne sono altri. C'era anche stata una pessima giornata di arbitraggio in Serie B sabato. Uno è la direzione di gara di Udinese-Roma, in cui Saccani, da più di un anno l'arbitro forse migliore in assoluto, forse più affidabile, ha sbagliato a ripetizione. L'altro è più eclatante, il caso Girardino, in cui però, a parer mio, le responsabilità dell'arbitro sono comunque inferiori rispetto a quelle del giocatore. Ci sono due notizie d'agenzia appena arrivate. Una è che la Procura federale della FIGC ha inviato al giudice sportivo Tosero una segnalazione riservata per Prova TV sul gol di Girardino, ma in particolare si pare da indiscrezioni sull'esultanza successiva del giocatore. I provvedimenti del giudice sono in ogni caso attesi per il pomeriggio, visto che mercoledì sera si rigioca e oggi arriveranno le squalifiche di ogni ordine e grado. Massimo Moratti, presidente della squadra che affronterà la Fiorentina mercoledì sera a Firenze, è pronto ad assolvere l'attaccante Viola. Credo che mercoledì sarà in campo, ha detto Moratti. Sono anche convinto sia difficile vedere un giocatore che, dopo aver segnato di mano, dica annullate il gol. Forse, ha concluso Moratti, Girardino non se ne è neanche reso conto. Altri spunti: non c'è che l'imbarazzo della scelta, il Napoli e l'Udinese al comando della classifica, un po' in sintonia con quanto sta accadendo in Europa. Ho qua sotto mano la prima pagina di oggi del pomeridiano del Sole 24 Ore, la Free Press distribuita gratuitamente sia a Roma che a Milano, ogni pomeriggio, lunedì al venerdì. Il titolo della pagina sportiva è l'Europa delle sorprese, e per l'appunto elenca Udinese e Napoli prime nel campionato italiano alla pari con l'Inter, l'Hoffenheim primo in Germania, una neopromossa, l'Hull secondo in Inghilterra alle spalle del Liverpool e a fianco del Chelsea. Non è una sorpresa il Valencia in Spagna, ma il fatto comunque che abbia un punto sul Real Barcellona qualcosa significa. Persino in Olanda il Groningen e il NAC Breda sono davanti alle grandi storiche, cioè all'Ajax e al PSV Eindhoven. Quindi è una fase continentale in cui c'è spazio al vertice per le seconde linee. La Fiorentina e il Milan sono già rientrate dopo una partenza abbastanza disastrosa, e questo significa che alla fine bisognerà fare probabilmente i conti tra grandi, come è intuitivo. Altra curiosità di giornata: l'Inter non ha segnato in casa dopo 60 partite, fa più di 3 campionati. E quindi anche questo è una notizia da commentare. Chievo e Torino infine mi sembrano mestamente avviate su un piano inclinato che porta dritto verso la Serie B, a meno che i due esoneri ormai nell'aria per De Biasi e probabilmente anche per Iacchini non cambino la situazione. Su tutto questo, anche la vigilia di due sfide al vertice, una che si poteva anche prevedere alla vigilia, che è quella di mercoledì sera tra Fiorentina e Inter, una che era sinceramente difficile indovinare prima del campionato e che sarà domenica sera Milan-Napoli. Considerando le partite di mercoledì e il coefficiente di difficoltà per la trasferta dell'Inter e anche per quella dell'Udinese a Catania, è ragionevole immaginare che Milan-Napoli di domenica sera possa essere lo scontro al vertice. Le prime voci di giornata, in attesa dei vostri interventi all'800240024, cominciando proprio dal caso Girardino. Sentiamo cosa ha detto il giocatore. È stata una situazione involontaria, dove nel cadere, con un contrasto da dietro, ho ricevuto una ginocchiata da dietro, quindi sarebbe stato rigore, involontariamente l'ho presa di mano e quindi è andata dentro la palla. Però non è stata una situazione voluta da me, anche perché sono andato con la consapevolezza di far gol di piede e ho ricevuto questa ginocchiata e nel cadere mi ha sbattuta sul braccio. Gli è sbattuta e poi c'è stata una spinta istintiva con il braccio a quel pallone, ma insomma io sono abbastanza sul perdonista in un caso di questo genere. Gagliani dice, appena arrivata una dichiarazione, è stato un peccato veniale e non mortale, e sta per l'appunto commentando l'episodio Girardino. Abete, presidente federale, Meglio come ha fatto Brienz, dice Abete, quindi ha ricordato un episodio di fair play, insomma in contrapposizione invece a questo che ha ritenuto un pochino meno elegante, e su questo direi che non ci possono essere dubbi. Il commento di Prandelli all'episodio. Subito all'inizio Alberto, parlando con i giocatori del Palermo e la panchina, ha detto che l'aveva preso col braccio ma non l'aveva fatto in modo volontario. Si è giustificato dicendo che c'era il difensore di dietro che gli ha dato una ginocchiata, quindi mentre stava cadendo ha messo il braccio proprio dove arrivava la palla. Questo è quello che ha detto Gilardino. Quello che penso io è che ha preso col braccio. E quindi al di là, se non era un calcio di rigore, era un gol da annullare, punto. Sicuramente è stato istintivo, anche perché dopo 10 secondi si è reso conto e cercava di giustificarsi. Il commento invece del tecnico del Palermo, Ballardini. Ci può stare che non si veda, ci può stare, ma Gilardino è un ragazzo molto sensibile, intelligente, era in difficoltà. Dopo il gol era in difficoltà. No, ho visto il suo atteggiamento, ha chiesto, mi pare fosse a disagio. Ballardini, come sempre, ha fotografato al meglio la situazione, più o meno come il suo presidente, che fa soltanto rima con Ballardini, nel senso che finisce con la stessa desinenza, ma insomma il personaggio lo conosciamo ed è leggermente diverso. C'è già un ascoltatore oggi, credo che sia il nuovo record di tempestività, perché non si tratta di tempestività, ma insomma di velocità nel mettersi in contatto con noi. Da Lodi ha chiamato Mirko, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Senta, volevo parlare un attimo del fair play. Sì. Perché diciamo che a noi spettatori l'hanno data da bere con quello spettacolo che fanno inizio fine partita, con quegli abbracci, baci che ci sanno i calciatori, poi entrano in campo, si menano come dei fabbri. Ho visto tre falli in scivolata con gambe alzate a 40 centimetri da terra, quello vuol dire entrare per fare male. Non c'è dubbio. E oltre a questo, poi voglio dire, perché quando uno non fa un gol di disonesto non avere l'occasione giusta? Fare il vero fair play. Ecco, però resti in linea. Siamo sicuri che glielo domando, perché non ho certezza in questi casi. Sa che di fronte a questi episodi coltivo il dubbio più delle certezze. Siamo sicuri che in una società come la nostra, cioè ampliamo un pochino il discorso, il fair play, i comportamenti virtuali debbano essere circoscritti al solo calcio? No, quello sì, no, assolutamente no, però. E allora è inutile che ci dicano a noi e ci fanno credere che esista un fair play facendo quello che fanno inizio alla fine della partita. Beh, magari ci prova. Fasulla. Magari è un tentativo, magari è un modo di provarci. E indubbiamente c'è una componente di recita in questo, non c'è dubbio, tutto quello che attiene all'esibizione, no? alle cose che avvengono sotto le telecamere. Però potrebbe essere invece semplicemente un tentativo di essere più leali, dopodiché ogni tanto l'istinto prende il sopravvento. Io, più che su Gilardino, grazie del suo intervento, su cui si può discutere credo all'infinito, avendo insomma, un fondo di certezza che Gilardino, tra l'altro, in genere di furbate, in materia di furbate, è anche recidivo, qualche dubbio sul suo fair play è più che legittimo. E lo si può coltivare. A me interessava di più la prima parte del suo intervento, perché trovo ancora più di maggior contrasto, no? Trovo ancora più incoerente il bacio e l'abbraccio all'inizio e alla fine, e in mezzo darsene, non di santa ragione sportivamente, perché questo è un altro discorso, ma darsela cercando di farsi male. E alla stessa maniera, e ampliando il discorso e coinvolgendo gli arbitri a proposito di cattiva giornata, io capisco benissimo che Airoldi o chiunque al suo posto faccia fatica a vedere questo tocco di avambraccio, questa leggera spinta del braccio di Gilardino sul pallone da terra. Non discuto che altre situazioni possano essere difficili da valutare. Sinceramente non riesco a capire come si possa non cacciare dal campo con un minimo di 3 giornate di squalifica gente come Diana per quell'entrata sul ginocchio di Nedved e gente come Maicon ieri. Cioè, quando un arbitro è chiamato a valutare un episodio solare che avviene a campo libero sotto gli occhi di tutti e non riesce a valutare la gravità di episodi come questo, ecco, io credo che quelli siano gli errori più gravi, ma ovviamente è un'opinione personale. In attesa che Rosa continui a passarci gli ascoltatori che già premono al centralino, sentiamo una parte di di altri commenti ereditati dalla domenica. Allora, prima Mourinho, non tanto sulla partita, anche un frammento molto lungo, se mai ci sarà tempo più tardi, ma Mourinho che rivendica di essere lui l'allenatore. Come allenatore c'è una cosa che per me è importante. Io sono sempre responsabile, ma voglio che il giocatore cerchi di fare in campo quello che dico io. Può riuscire a farlo? No. Ma allenatore è solo uno. E veramente mi sembra che in secondo tempo qualcuno, chissà, non mi conosce ancora bene. Chissà martedì quando devo fare la convocatoria per mercoledì, chissà per prima volta. Non lo conoscono evidentemente ancora bene, lo conoscono così poco al punto da non immaginarsi che i panni sporchi alla portoghese si lavano anche in pubblico e non soltanto in spogliatoio come fanno in genere gli allenatori più normali. D'altra parte non si è speciali per niente. Marione Scalia da Milano trova che il gol di Acqua Fresca e lo spunto di Lavezzi siano state le cose più belle della domenica. Io sono completamente d'accordo con lui, perché il gol di Acqua Fresca è un gioiello assoluto e Lavezzi, beh, poi il fattore C nel fatto che quello spunto diventi un gol è assolutamente determinante, ma il modo in cui Lavezzi si incunea un'altra volta tra due difensori in uno spazio apparentemente chiuso, cioè lì c'è l'impenetrabilità dei corpi come c'era in quell'occasione contro la Juventus di un'occasione precedente, ma lui riesce a intrufolarsi lo stesso, barcollando arriva sul pallone e lo rimette indietro, e quella è una percussione capolavoro. Da Bari ha chiamato Ludovico, buongiorno. No, dottor Gasi. Dica, buongiorno. Senta, vorrei farle una domanda riguardo alla prestazione di Antonio Cassano riguardo alla partita di ieri. Penso che ancora una volta il ragazzo sta dimostrando, non dico quel che vale, perché il suo valore penso che lo conosciamo tutti quanti in Italia, ma io quello che le dico, è regolare che il signor Lippi continui a mettere in nazionale giocatori senza nulla togliere, tipo il Pepe o Quagliarella, che non so cosa abbiano dimostrato di più di Cassano in questo campionato? Glielo chiedo a lei, perché la sento spesso a quest'ora giudicare, vedo che di calcio ne mastica parecchio. Beh, non abbastanza da darle ragione, Ludovico, nel senso che, o meglio, certo che Cassano in questo periodo sta giocando bene. Stava giocando bene anche l'anno scorso, quando poi è stato chiamato agli europei, sembrava il salvatore della patria. Non mi pare che abbia salvato alcuna patria, e quindi io in questi casi mi fido certamente più delle convocazioni di un commissario tecnico che non delle opinioni mie o sue che lasciano un pochino di più il tempo che trovano. Non credo che Lippi abbia delle prevenzioni nei confronti di Cassano, credo che faccia delle scelte. Non ho mai conosciuto commissari tecnici autolesionisti, e questa vicenda mi ricorda tantissimo quella che riguardava Bearzotto e Becalossi nei primissimi anni 80, e quindi lascerei che Cassano continuasse cioè si confermasse su questi livelli, magari migliorando ancora, dopodiché credo che diventerebbe difficile escluderlo. Vito ha chiamato da Bari, buongiorno. Vito aveva chiamato da Bari, e c'è Francesco dalla provincia di Viterbo, buongiorno. Sì, buongiorno, sempre un piacere. Allora, volevo chiedere una cosa: se la crisi della Roma non era, secondo lei, data dal fatto che gli anni precedenti è stata un po' illusa dai risultati ottenuti, anche per mancanza di veri concorrenti oltre all'Inter, insomma, cioè non c'era il Milan migliore, non c'era la Juve migliore, e quest'anno, diciamo, le varie lacune che si è portata avanti si sono evidenziate forse più del dovuto, dovuta anche appunto a una certa supponenza dei suoi interpreti, insomma. Beh, Francesco, io credo che la Roma per 3 anni abbia fatto, non dico le nozze con i fichi secchi, ma insomma, da un certo punto di vista quasi. Spalletti era stato formidabilmente creativo, e l'abbiamo detto e l'abbiamo ripetuto, e credo che tutto il calcio europeo, non solo italiano, concordasse su questo, nel creare una nuova formula di gioco che prescindeva da un solo attaccante di ruolo e faceva indossare quei panni a Totti in una libera interpretazione dell'attaccante, insomma, della prima punta, che era anche insieme ispiratore di gioco, ma unica punta, non di Deguti dei tempi della Grande Ungheria, quando davanti c'erano comunque Puskas e Xibor. questa formula per un po' ha funzionato. Perché continuasse a funzionare bisognava che questa squadra fosse innervata di talenti, cioè lentamente venisse rafforzata con giocatori di qualità. Per ragioni di bilancio è stata innervata con Rise, Loria e alcuni altri. E nel frattempo il tessuto portante si è sfilacciato. Totti è rientrato da poco ed era, ripeto, il segreto di quella formula. Da qui questi risultati, persino superiori comunque alle, cioè, persino più infelici delle peggiori previsioni. Un ascoltatore segnala che in realtà Morganti è semplice, l'arbitro di Palermo ha semplicemente concesso il vantaggio anziché fischiare subito un rigore. In effetti sul Girardino poteva esserci un fallo da rigore in questa circostanza, e tra parentesi ce n'era certamente uno qualche minuto prima, però escluderei questa ipotesi, perché il va bene la norma del vantaggio, ma se la norma del vantaggio si estrinseca in un fallo di mano per far gol e l'arbitro quindi lo avesse colto, mai avrebbe concesso quel gol segnato con la mano. Claudio da Genova ha chiamato, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Volevo parlare della partita di ieri di Inter-Genova, no? Sì. Perché insomma si è fatto tanto parlare di Mourinho che si è arrabbiato con i suoi, che non hanno fatto il loro dovere, l'Inter ha giocato male. Però bisogna anche far notare che insomma l'Inter ha giocato contro una squadra che ieri l'ha messa in campo in un modo perfetto, ha corso molto più dell'Inter e che 11 contro 11 meritava nettamente di essere in vantaggio. E con l'uomo in meno comunque ha concesso all'Inter solo delle grandi mischie e dei grandi palloni buttati in mezzo e boh. È una buona valutazione la sua, c'è quel nettamente che è un po' eccessivo, però fa parte del tifo, insomma. Quindi per carità, io esagero. Pochino. Ecco. Pochino sì. Con meno, comunque le occasioni migliori comunque le ha sempre avute. Sono d'accordo con lei, Claudio, però allora no, stia in linea, perché questo è interessante. Secondo lei, se a San Siro, dove l'Inter segna da 60 partite consecutive, e una squadra è l'Inter e l'altra è il Genoa, con tutto rispetto, un rispetto che sta crescendo di giornata in giornata, se con mezz'ora più recupero di superiorità numerica l'Inter non riesce a superare il Genoa, fa più notizia questo o fa più notizia che il Genoa riesca a bloccare l'Inter? No, per carità, per uno che non è genoano fa più notizia che il Genoa, che l'Inter e allora ci siamo. Genoano fa notizia il fatto che ieri insomma. Allora, lei ha fatto benissimo a sottolineare quello che ha sottolineato, tenga conto che la trasmissione non si chiama Forza Zena e quindi grosso modo cerca di vedere i fatti, insomma, di raccontare o di commentare le cose in un'ottica un po' più generalista che non di settore. Ripeto, il suo intervento è ineccepibile, salvo quel nettamente che sinceramente non ci stava. Stefano ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io prendo un attimo spunto sulla parola che ha detto lei prima sul discorso Lavezzi. Sì. Me lo lasci dire il napoletano. Ieri Lavezzi ha fatto una cosa fantastica. Al di là che sono tifoso per il Napoli, sì. Ha ubriacato mezza difesa laziale. Sì, e poi ha preso la panza di un terzino, perché sennò di quella roba lì non si ricorderebbe mai nessuno, no? Fa parte del gioco anche quello. Sì, va buono. Come fa parte la mano di Girardino, fa parte anche la pancia della Certo, certo, certo. Va bene. Era un intervento di grande spessore, insomma. Ma se io che ringrazio lei, perché se non ci facciamo una risatina ogni tanto, guai. Anche qui c'è troppa gente che sta prendendo la. Magari a cominciare da me, ma insomma, la stia prendendo un po' tanto sul serio tutto, a cominciare anche dal tocco di mano di Girardino. Quindi se arriva lei con il suo capolavoro di Lavezzi, va boh, ripeto, ci può stare come. Oreste da Caserta, buongiorno. Salve, buongiorno dottore. Dica. Volevo chiederle un pensiero sul periodo della Juve, se era strettamente collegato agli infortuni oppure a una situazione di spogliatoio dove ci sono delle crepe, secondo lei, secondo me, incolmabili fra il vecchio e il nuovo gruppo. Senta un po', io le dico quali sono le crepe, poi valuti lei, valuti lei se sono più le crepe o sono più gli infortuni. Le leggo la formazione degli infortunati attuali della Juventus. È una squadra intera. Buffon in porta, Buffon, non Manninger, Buffon. Da destra a sinistra la difesa infortunata è Salihamidžić, Zebina, Grigera e De Ceglie. Mi rendo conto che non è la Maginot di qualche grande squadrone mondiale, ma sono pur sempre quattro giocatori che, a parer mio, tolto Zebina, il loro posto lo trovano e lo tengono. A centrocampo ce n'è cinque e sono da destra a sinistra Camoranesi, Paulsen, Thiago, Zanetti e Marchisio. Anche qui lasciamo perdere Thiago, ma è pur sempre un giocatore su cui non può contare. L'unica punta è Trezeguet. Io credo che sia una squadra che la sua figuretta comunque la farebbe e qualche punto insieme lo metterebbe in campionato, giusto per stare davanti alle ultime, perlomeno alle ultime 6 o 7 che lottano per la B. Quindi mi dica lei se il problema principale è questo o può essere un altro. Da Bari ha chiamato Vito? Vito, sì. Ripescato. Buongiorno Vito, dica. Sì, buonasera, buongiorno dottor, sì. Complimenti innanzitutto per la trasmissione. Niente, una piccola osservazione, lei ha già parlato prima del discorso che in Italia l'andaz è un po' ipocrita o anche di simulazione in ogni ambiente, però le spiego, si ricorda di Cagno in Inghilterra? Massimo, sì. Fair play, Massimo non si tuffava più ed era sempre il primo a dare la mano agli avversari. Quando è tornato in Italia è stato un disastro con tutti i giocatori, arbitri e quant'altro. Quello che mi viene da pensare è come mai i nostri giocatori in Italia niente lealtà, niente sportività. Quando vanno all'estero non si buttano, non si tuffano, oppure non viene riconosciuto affatto questa loro attitudine. Mi ha stupito il fatto anche che ieri Petrucci abbia detto e abbia difeso subito a spada tratta il giocatore pensando che fosse stato un piccolo incidente. Francamente sono un po' perplesso su queste situazioni che avvengono in Italia. Cosa ne pensa? Appunto, penso quello che dicevo all'inizio, penso che l'Italia è un paese di comportamenti così virtuosi, di fair play, di educazione, di senso di responsabilità e di civiltà così elevati in ogni campo della vita che mi sembra uno scandalo che non lo sia nel calcio, insomma, no? con tutti per l'appunto gli esempi ideali che i calciatori potrebbero attingere da parte di chi ci governa, da parte di chi ci amministra, da parte di chi ci cura i nostri risparmi, eccetera, eccetera, da parte di chi ci cura in qualche caso. E quindi tra secolo, pensando appunto che il calcio non è degno di un paese così, così virtuoso e così impeccabile da un punto di vista etico. Alfredo, provincia di Varese, buongiorno. Aspetta un attimo, Alfredo, mi scusi, la interrompo un istante solo perché Flavio Suardi mi ha piazzato sul display una notizia che vale la pena di essere letta subito. Il Mantova comunica di aver sollevato il signor Brucato dall'incarico di allenatore e di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al signor Alessandro Costacurta, che quindi debutta ufficialmente da allenatore. Era stato dato ultimamente come candidato all'uno o all'altra panchina, è un ex giocatore con ogni probabilità destinato ad una buona o magari luminosa carriera da tecnico, vista la saggezza tattica che già lo guidava in campo quando era giovane, figurarsi quando lo era meno. Bene, la carriera di Costacurta comincia a Mantova e mi sembrava una cosa da segnalare tempestivamente. Dica Alfredo e mi scusi. No, prego, volevo solo dire che intanto la sua ultima risposta all'ultimo ascoltatore di prima è brillante e la condivido pienamente. Fa piacere. E poi volevo chiederle sul Napoli, sì? Se condivide che con la squadra attuale, se si aggiungesse un centrale veramente forte, di grande livello, ed una punta altrettanto veramente forte, di grande livello, da affiancare alla Vezzi, senza nulla togliere a Saieta, che danno il loro impegno ogni partita, l'11 titolare, che al di là dei problemi di rosa, sarebbe realmente all'altezza delle altre squadre per competere per Champions. No, Alfredo, io non sono d'accordo nemmeno con questo, nemmeno su questo. Credo che sia quello il progetto che della società Napoli, e cioè di innervare la squadra prossimamente con qualche altro acquisto di qualità, con un paio almeno, nelle posizioni che ha detto lei, fin lì ci siamo. Ma se anche avesse lì oggi due grandi giocatori, il resto della squadra, insomma, sarebbe pur sempre inferiore almeno ad altre due o tre rose di Serie A, rose dei primi 11, dopodiché ci sarebbe il problema dei rincalzi. No, il Napoli sta facendo una stagione splendida che ha persino del miracoloso. Lasciamogliela fare con questi guy, vediamo fin dove arrivano, perché magari vanno molto, ma molto più lontano di quello che invece sulla carta si potrebbe immaginare. Dino, provincia di Pordenone, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo solo fare i complimenti al mio presidente Moratti per aver ingaggiato un professionista di altissimo livello come Mourinho, sì, che mi sembra sia un personaggio che ha le idee molto chiare, che dice Quaresma è bravo perché fa quello che gli dico io anche se gioca male, però tra il primo e il secondo tempo lo cambia. Poi prende uno come Balotelli che lui sa fare cinque cose, scatta l'avversario, lo fa espellere, però non gioca come dice lui. Secondo me ha ereditato una grandissima squadra che con un po' di logica, non dico io, lei o chi altro, la farebbe sicuramente giocare un po' meglio di come gioca l'Inter. Lui si inventa che Ibrahim deve fare il centravanti e Cruz deve stare 5 metri dietro. Normalmente eravamo abituati a vedere un po' esattamente il contrario, però Mourinho il calcio lo vede così. Mi dispiace solo che l'abbiamo cambiato per Mancini, che magari non era una cosa meravigliosa, però per 60 partite a San Siro abbiamo visto segnare l'Inter. E soprattutto abbiamo portato a casa 4 giocatori così, tipo Maico, Julio Cesar, Cambiasso, Maxwell, a parametro zero, e ci portiamo, e invece lui ci fa spendere magari i soldini per un fuoriclasse come questo, Quaresma, insomma. Questo ecco, mi sembra l'ultimo dei problemi per la società, no? Da quello che si legge in termini di bilanci. Ma insomma, la sua era una critica appassionata. Io credo che Mancini non l'avrebbe passata così liscia al momento come la sta passando Mourinho, ma è anche vero che bisogna dar tempo anche ai profeti di ambientarsi. Torniamo in collegamento con gli arbitri designati, in attesa del verdetto del giudice sportivo, soprattutto per quanto riguarda la prova TV chiesta per l'episodio Girardino. Si rigioca dopo domani 20:30, gli arbitri: Bologna-Juventus Trefoloni, Catania-Udinese Banti, Chievo-Lazio Bergonzi, Fiorentina-Inter Rosetti, Genoa-Cagliari Valeri, Lecce-Palermo Tommasi, Milan-Siena-Celi, Napoli-Regina Gervasoni, Roma-Sampdoria Tagliavento, Torino-Atalanta De Marco. Ascoltatori già collegati, vedo da Milano, Firenze, Roma, Trapani, Vicenza. Beh, geograficamente direi che la rappresentatività c'è. Ivan da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Caracena. Dica. Dunque, sono intervisto da più di 30 anni. Ho bisogno di avere in mente che mi dia uno stimolo per farmi innamorare di questo Benedetto Mourinho. Veramente non riesco a farmi entrare nella testa. Gentilmente mi poteva consigliare il suo libro, forse il libro appunto di Mourinho, se forse c'è dentro qualche spiegazione di questi suoi comportamenti che veramente... Ho letto, ne sono usciti 3 o 4 mi pare, credo che siano, sono agiografie più che biografie. Non, comunque ha sbagliato sportello, non è più indicato il mio e infatti il suo intervento mi sembrava palesemente ironico. Poi un giorno cambieremo opinione, insomma, lei e io, e numero crescente mi pare di capire di interisti. Al momento io provo un discreto sconcerto, insomma, di fronte ad alcuni atteggiamenti, di fronte ad alcune scelte, di fronte ad un po' di cose che sinceramente non mi convincono e che mi sembrano fatte per complicarsi la vita e per complicare il cammino della squadra. Però le ripeto, non è facile capire quelli che si sforzano di ad ogni costo di non essere mai banali, no? Da Firenze ha chiamato Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno signor Gigi. Dica. Io volevo fare, sono tifoso viola della Fiorentina, volevo fare 2 considerazioni. La prima è quella di Girardino, che al di là delle volontarietà o meno, non mi è piaciuto molto nelle dichiarazioni subito dopo la partita, secondo me... Nella risultanza né nelle dichiarazioni. Esatto. Bravo. Per un altro verso vorrei fare un plauso grosso a Ballardini, che secondo me... Viste le reazioni ultime del Palermo con Guidolin, con tutta questa Zamparini, lui è stato un signore che secondo me riuscirà forse a salvare il Palermo sotto questo punto di vista. Momento, si faccia sì. Capire bene, perché sennò poi mi arrivano 241 palermitani inferociti. Salvare l'immagine, intendo. C'ha ragione. L'immagine, per quanto, ecco, io diciamo, conoscendo una persona come Zamparini, che c'ha sempre la polemica subito dopo qualsiasi ci metta pure anche l'ha citato prima Guidolin, che insomma Guidolin uguale esatto. Metta pure Guidolin, che quell'altra volta tra Palermo e Fiorentina ebbe un comportamento isterico assolutamente intollerabile. Diciamo, Guidolin, che si è beccato alla guida del Parma, si è beccato due giornate di squalifica sabato per insulti all'arbitro, esatto, in Mantova-Parma durante l'intervallo. Esatto, no, quello che io mi riferivo proprio a quell'episodio lì. Io ho visto ieri la partita, ho visto l'episodio di Gilardino e ho visto anche come Ballardini è riuscito a avere un comportamento esemplare, e anche dopo la partita è riuscito a dire al Palermo che nonostante tutto la squadra è bella. Bene, secondo me queste cose al Palermo come squadra, perché è una bella squadra Palermo, gli vanno bene, diciamo, gli alzano perfettamente. Cioè, sono dubbi. Grande partita quella di ieri, per merito soprattutto della Fiorentina, ma anche del Palermo. La Fiorentina ha giocato una partita splendida, direi, proprio per la difficoltà di giocare su quel campo e contro quell'avversario. E il Palermo, forse qualcosina, al di là dell'episodio, per un certo periodo qualcosina di più forse avrebbe meritato, anche se però il pallino in mano l'ha sempre avuto da capo a fondo la Fiorentina. Partita eccellente che dimostra che la Fiorentina può andare lontano. Adesso lei mi maledirà se io le dico che andar fuori dalla Champions non sarebbe poi quella grande disgrazia in proiezione al campionato, però queste, ripeto, sono opinioni. Alessandro da Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Senta, volevo ricordare il fatto che De Rossi comunque si fece annullare un gol fatto di mano tempo fa, mi pare l'anno scorso. Sì, forse anche un paio d'anni fa. Sì, è vero, è vero. E poi io volevo fare una specie di provocazione, non lo so, ma secondo me c'è... Sì. Provochi. Qualcosa no, volevo resterà. Dire che secondo me c'è un pizzico di malafede nel calcio, perché se no metterebbero la prova TV, cioè nel senso come fanno anche nella pallacanestro, che uno chiede la prova TV istantanea per poter vedere insomma quello che c'è, perché la partita di ieri secondo me è stata sfalsata dall'arbitraggio, è normale che poi la squadra si innervosisca, anche non essendo al top, diciamo. Sì. E per ultima cosa volevo dire che la Roma quest'anno ha sbagliato il fatto di dare un mese in più di ferie ai giocatori, secondo me è stato il problema della squadra, diciamo. Non so, non tengo conto delle ferie delle società e delle squadre. Io credo che la Roma abbia sbagliato i rinforzi, perché sono stati ha creduto di rafforzarsi con due o tre giocatori che palesemente l'hanno indebolita. Questo mi sembra che ormai dopo un po' di partite si possa dire. Dopodiché, quando la slavina comincia a rotolare, poi coinvolge anche dei massi che insomma, apparentemente sarebbero inamovibili, no? E sto pensando a fior di colonna della Roma, che adesso si stanno lasciando travolgere. Era il gol del 2-0, quello che ricorda lei, era un Roma-Messina del 19 maggio 2006, quindi sono passati due anni e mezzo, ed era il gol del 2-0. Questo non significa nulla, non lo dico per sminuire il gesto di De Rossi, che fu bellissimo. Quello di ieri di Girardino indubbiamente lo è stato un po' meno, ma sono... Cioè, no, le contraddizioni sono tante. La Fiorentina è la squadra che ha inaugurato il fair play, che ha inaugurato insomma, che ha molto coltivato il fair play, che ha inventato il terzo tempo, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale anche dall'UEFA per il suo spirito sportivo. Ieri sera un episodio di un singolo, non certamente un comportamento studiato a tavolino, un episodio di un singolo e per giunta istintivo. Sono le contraddizioni del calcio. Baldo, sì, ha chiamato dalla provincia di Trapani. Buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Sono un tifoso dell'Inter, chiamavo per fare una piccola analisi riguardo le partite dell'Inter giocate in casa quest'anno in campionato. Sì, Inter Catania 2-1 con due torreti, Inter Lecce 1-0 con gol di Cruz che è subentrato, Inter Bologna 2-1 e ieri 0-0. Io volevo dire solamente che secondo me l'Inter quando gioca in casa con le squadre diciamo medie che si chiudono abbastanza bene avrebbe bisogno di screare oltre a Ibrahimovic un giocatore tra Crespo e Cruz, che regolarmente invece non vengono, nel caso di Crespo addirittura non venne neanche convocato in panchina. E quindi Cruz è stato superato, Crespo sono stati superati in ordine da Adriano, Obinna, Quaresma e Balotelli. Volevo sapere una sua impressione su questo dato di fatto, che l'Inter ha difficoltà proprio a segnare nelle partite di casa. Oggettivo, grazie. Oggettivo, credo che basti questo aggettivo, un aggettivo che è oggettivo. Basilio, provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno Rei. Dica. Volevo intervenire un attimo sulla polemica di Gilardino. Io in sera ho visto la televisione, ho solo intravisto un po', siamo sicuri che Gilardino si è accorto di averla buttata dentro con la mano? Sì, siamo sicuri, Basilio. Io mi sono permesso di interloquire un attimo, perché da quello che ho visto io è stata talmente un'azione rapida che il giocatore, io ho giocato di calcio fino a 34 anni, e certe cose succedevano e non te ne accorgevi neanche, pure te ne accorgevi dopo ripensandoci bene. Poi dopo non so cosa dice Gilardino. Quando la palla la butti dentro con la mano piuttosto che con altre parti del corpo, e non vorrei spingermi oltre, non propriamente deputate a mandare in porta il pallone, te ne accorgi come? E lo si vede a occhio nudo da come reagisce Gilardino, da quando si rialza, guarda l'arbitro e poi comincia la sua danzetta che via via si smorza un po' del rossore, insomma. Lei mi viene a dire che non si è accorto, l'ha fatto con la mano, ma dai. Davide da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Dica. Senti, io telefonavo per rispondere, sono tifoso juventino, per rispondere all'ascoltatore di prima che le chiedeva se il problema della Juve era un problema di organico che mancava, un problema di spogliatoio. L'ha già risposto lei, però niente, io volevo solo confermare, siccome anche la stampa è stata un po' crudele con lo spogliatoio juventino la settimana scorsa. Dove peraltro litigavano di brutto a un certo punto. Sì. Litigavano di brutto. Questo era un accessorio. Certo, beh, comunque guardi, io dubito che un Del Piero, un Nedved vada a litigare con un Giovinco, con De Ceglie. No, infatti litigavano con Ranieri, mica con Giovinco, con De Ceglie, litigavano con Ranieri e di brutto. Tutto questo nasceva da una mancanza di risultati e da questa serie di infortuni che aveva creato, che aveva contribuito ad alimentare un momento difficile che era, insomma, e che comprendeva fin dall'inizio qualche malumore, qualche incomprensione e qualche scelta incomprensibile per il mio di Ranieri, soprattutto sul piano del rispetto che si deve a delle vecchie colonne della squadra. Il ripasso di storia affidato anche oggi, come sempre, a Nicola Filippone. Sembra ieri. 27 ottobre 1982. La nazionale di Berzot torna in campo per la prima volta dopo il trionfo mondiale dell'11 luglio a Madrid, affrontando la Svizzera in amichevole all'Olimpico. A rovinare l'esibizione festosa degli azzurri ci pensa Rudi Elsener, attaccante dello Zurigo, che al 53esimo supera Bordon, subentrato a Zoff a inizio ripresa. L'Italia esce dunque sconfitta per 1-0, rimediando un KO interno dopo 11 anni. Un campanello d'allarme che si rivelerà fondato. Gli azzurri mancheranno infatti a sorpresa la qualificazione alla fase finale degli europei dell'84. Torniamo agli amici già collegati dalla provincia di Bergamo. Ha chiamato Michele, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, volevo dirle che secondo me lei la radio è sprecato, meriterebbe ben altri palcoscenici con i qua che ci sono in giro. Ce l'ha con me lei, No, vado... sarò breve, volevo dire, io chiamavo a proposito di quel signore che ha chiamato per Cassano perché non lo convocano in nazionale. Noi la primavera scorsa come gruppo di allenatori ci siamo recati a Bogliasco a vedere la Sampdoria e le posso dire che Cassano è veramente una cosa scandalosa. Ancora più scandaloso è il fatto che quando si sentono magari dei dirigenti o anche l'allenatore in televisione dire che lo gestiscono, lo stiamo gestendo, è bravo di qua, è bravo di là, questo qua praticamente durante gli allenamenti non fa niente, i suoi compagni si allenano e lui gli gira, se ne va da un'altra parte a fare tutt'altra cosa. E queste cose. E volevo dire che io capisco Lippi, anche se non lo stimo, perché secondo me Lippi non dovrebbe allenare la nazionale per quello che ha fatto, dovrebbero fargli fare la fine che hanno fatto Moggi e Giraudo, però in Italia cosa vuole? È così. andiamo avanti così. Volevo sapere lei cosa ne pensa. Michele, non mi, fa, non, non mi tiri dentro in queste storie, per cortesia. Non ho mai visto allenarsi, anzi non allenarsi, come dice lei, Cassano. Sulla fine, cioè la fine è un'espressione infelicissima, abbia pazienza, però qualche sviluppo interessante proprio oggi che riguarda Giraudo e la Juventus di allora c'è. Prima di fine trasmissione ci sarà tempo. C'è una brutta notizia per l'Atalanta in compenso, che Cigarini ha riportato un incidente abbastanza serio, uno stiramento una lesione del collaterale nel ginocchio destro, e per almeno un mese e mezzo, ipotesi più favorevole al momento, e cioè diciamo fino a dopo la sosta natalizia, Cigarini ha perso per l'Atalanta ed era insomma una pedina chiave del centrocampo di Del Neri. Daniele da Siena, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Innanzitutto complimenti per la sua professionalità, diciamo. Ecco, la mia domanda era: io sono perfettamente cosciente che il Siena non faccia notizia, e mai la farà, e che forse in Serie A è anche molto indesiderato, no? Però perché è indesiderato, Daniele, mi scusi? Perché è piccolo, perché non fa abbonati, non fa ascolti con le televisioni, cioè con i vari Sky, Premium TV, non fa molti abbonati, quindi lo ritengo sia molto indesiderato in Serie A. E parlando di fair play, anche domenica si sono concentrati tutti sul gesto di Gilardino. Quando, secondo me, se si ricorda il gol del Catania, Colucci si è involato verso Curci dopo che Ficagna gli era letteralmente franato davanti, e avrà un mese di stop per un infortunio molto serio, e nessuno ha messo in evidenza questo gesto, che io personalmente non condanno, perché forse da calciatore anche io sarei andato verso la porta. Però Colucci si è involato verso la porta con un Ficagna che gli è franato davanti, e non c'è stata una televisione che abbia messo in evidenza questo gesto antisportivo di Colucci. Volevo sapere cosa ne pensava lei, perché a me... Ma cosa vuole che ne pensi, Daniele? Questi atteggiamenti dei media mi stanno allontanando sempre più dal calcio, sinceramente. Mm-hmm. Sì, però anche lì bisogna mettersi d'accordo, cioè se Brienza si ferma, Brienza esagera. Io perlomeno penso così. Quest'altro invece doveva fermarsi. Se si ferma una grande squadra, se non si ferma quello della piccola, allora ce l'hanno quelli della piccola perché è contro gli interessi di Sky. Io credo che sia dura andare avanti così, cioè sia soltanto a fine ottobre. Come la tiriamo giugno se la mettiamo così? Poi, per carità, sull'episodio, lei prima ha detto un grande professionista, io glielo confermo subito dicendo che non ho visto Siena Catania, non ho la minima idea dell'episodio di cui sta parlando, vede quindi che fiori professionisti io sia, però ripeto, non è che possiamo ogni volta fare la vivisezione di ogni partita, soprattutto di quelle che coinvolgono fatalmente, inevitabilmente, platee un pochino più limitate. Fabio scrive una cosa bellissima: lavorare alla radio, a mio parere, non sminuisce nessuno, anzi. Fabio, meno male che tanti la pensano come lei, per esempio tutti quelli che ascoltano Radio 24, che in questo momento sono sintonizzati su Radio 24, forse con un gradimento superiore rispetto a qualcosa, cioè ad altri investimenti del proprio tempo libero, no? A quello che sento e a quello che ogni tanto scrivete. Da Napoli ha chiamato Rosario, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Volevo chiedere una cosa, per quanto riguarda Girardino e il fallo di mano di ieri, per due cose. La prima cosa è che c'è un'ipocrisia nel mondo del pallone, perché nessuno, anche ieri per televisione a Sky, ha avuto il coraggio di dire a Girardino: guarda, tu hai preso con la mano volontariamente, che poi l'hai fatto, cioè l'hai segnato, è un altro discorso. E poi volevo dire anche un'altra cosa: io mi ricordo un paio di anni fa o due o tre anni fa, in Chievo Juve, la palla del Chievo per un tiro prese la traversa e poi superò la linea di porta. Buffon vide tutto, che la palla aveva superato la linea, ma neanche Buffon, che tutti quanti reputano una persona lineare e sincera, ebbe il coraggio di dire che era tutto. Cioè, solo questo, ci sta un'ipocrisia nel mondo del pallone che è troppo esagerata. Bastasse uno che per una volta avesse il coraggio di dire: guarda, l'ho presa con la mano, oppure non era gol. Ma mi faccio piacere, Rosario, per cortesia, mi faccia il piacere. Vittorio ha chiamato la Monza, buongiorno. Buongiorno dottor Garantini. Dica, lasci stare il dottore, che oggi sono già un po' consunto, siamo verso la fine, forse mi ce scusi, la facciamo. Ma io sono il suo grande estimatore, sì, volevo fare due consigli. Ma lei, se è un mio grande estimatore, lo sa che non sono nemmeno infermiere, quindi dica Vittorio. Senta, volevo fare complimenti all'allenatore Gasperini e al Genoa, che è due anni che nel nostro campionato gioca il miglior calcio. Lei è d'accordo con me? No, nel modo più assoluto no. lo scorso anno ha giocato alcune partite buone e altre pessime, quest'anno ha giocato delle magnifiche partite in casa, dove davvero esprime meglio di sé questa squadra a Marassi. Ieri sorprendentemente ha giocato un'eccellente partita anche fuori casa. Io credo per merito suoi e per merito suo e con una discreta coproduzione degli avversari, ma certamente innanzitutto per merito suo. La notizia di cui vi dovevo conto prima è stata battuta la Lanza poco dopo le 12 ed è forse la spiegazione. Ho aspettato la fine della puntata proprio a leggervela. Perché? Perché non ho sentito interventi mirati alla crisi, alla brutta giornata arbitrale di ieri. Questo secondo me è un segno interessante, vuol dire che finalmente si pensa, perlomeno chi è intervenuto oggi o chi ha chiesto di intervenire pensa che tutto questo faccia parte delle possibilità, dei margini di errore e che non ci sia più nulla di, chiamiamolo, strano come era una volta. Per esempio questa cosa: polizze di assicurazione stipulate per conto della Juventus dall'allora amministratore delegato della società Antonio Giraudo con chi? Con Paolo Bergamo, designatore arbitrale e all'epoca agente generale dell'INAS Italia. Sono documenti emersi da una recente indagine della Guardia di Finanza, depositati dai PM Narducci e Beatrice oggi nel corso dell'udienza davanti al GUP De Gregorio, relativa al giudizio abbreviato che si sta celebrando nei confronti di Giraudo e di altri 10 imputati di Calciopoli. Quelle polizze furono poi liquidate alla Juventus, secondo quanto riferito in aula dai PM, per un importo di 1.800.000 euro e 1.032.000 euro. Non sono, ha sottolineato il PM Narducci, operazioni illecite, ma hanno comunque rilevanza perché dimostrano un intreccio di rapporti. Le due polizze furono stipulate nel 2001 e nel 2003 nella città di Livorno presso l'agenzia INAS Italia, di cui Bergamo era agente generale. Nel 2007 l'amministratore attuale della Juventus, Blanc, ha chiesto la liquidazione anticipata del premio. Quando si dice la casualità, no? Di una società di Torino che si assicurava a Livorno. Ci sarebbe ancora un ascoltatore in linea, si chiama Andrea, chiamato proprio da Torino, gli chiedo scusa, ma quest'ultima notizia ci ha portato via il minuto che poteva essere destinato a lui, di questo mi scuso e gli do appuntamento sin d'ora a domani. Come a tutti voi, grazie a Carmelo Lauriceno in regia, a Flavio Suari in redazione, vi lascio al Giornale Radio.